144 uova ripiene secondo. Per principio ad una colazione possono bastare a 6 persone. Uova numero 6, burro grammi 30, midolla di pane grammi 20, parmigiano 2 cucchiaiate colme, funghi secchi un pizzico, prezzemolo alcune foglie, sale quanto basta, le uova sodatele e tagliatele per il lungo e mettete i rossi da parte. La midolla di pane insuppatela bene nel latte e spremetela. I funghi rammolliteli nell'acqua tiepida. Pestate il tutto finissimo per riempire, anzi colmare, i vuoti delle chiare. E queste 12 mezze uova ricolme, collocatele in un vassoio dalla parte convessa, sopra uno strato di patate, passate come alla ricetta del numero 443, ma nella quantità di grammi 350 da crude. Invece di patate, potete posarle sopra uno strato di spinaci, di piselli o di altri legumi. Prima di mandarle in tavola, scaldatele col fuoco che porrete sul coperchio del forno da campagna.